America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Raising the debt ceiling does not authorize more spending. It simply allows the country to pay for spending that Congress has already committed to. Barack Obama, il presidente americano, ha convocato ieri una conferenza stampa a sorpresa, l'ultima conferenza stampa del suo primo mandato, e devo dire ha lanciato un attacco pesante sul piano politico contro i repubblicani in materia di disavanzo pubblico, tagli alla spesa e soprattutto di rinnovo del tetto sul debito. Lo avete sentito, il presidente ha detto: io non consentirò che vi sia una pistola puntata alla tempia degli americani sulla questione del tetto sul debito. Un messaggio chiarissimo: il tetto sul debito che i repubblicani volevano usare come arma di ricatto per ottenere concessioni da Barack Obama sul fronte del disavanzo e dei tagli alla spesa, no, dice Obama, non sognatevi di usarlo come arma di ricatto, perché io non ci sto, non negozio sul rinnovo del tetto sul debito, e se vorrete prendervi la responsabilità di far andare gli Stati Uniti in bancarotta, questo è nel vostro diritto, prendetevela pure. The debt ceiling should not be something that is used as a gun against the heads of the American people to extract tax breaks for corporate jet owners. Avete sentito di nuovo il presidente nel suo intervento di ieri. Devo dire che il 90% della conferenza stampa è stato dedicato esclusivamente alla questione del tetto sul debito, del negoziato sul disavanzo, e in misura molto minore alla questione dell'immigrazione. Obama ha promesso che farà degli interventi anche con degli ordini esecutivi per poter agevolare l'integrazione di alcuni immigrati illegali, e si è anche impegnato a dare notizie entro la fine di questa settimana sui suoi progetti per controllare la diffusione delle armi in America. Per ora non ci sono notizie specifiche né per l'un caso né per l'altro, e invece, come vi ho detto, le notizie ci sono, e come sul fronte economico. Vediamo qual è la situazione. Dunque, abbiamo archiviato una metà del fiscal cliff alla fine dell'anno. Si è risolta la questione degli aumenti delle tasse, c'è stato un compromesso, c'è stato un accordo. Non c'è stato accordo invece sulla questione dei tagli alla spesa. Ci sono ancora dei meccanismi automatici che potrebbero intervenire il 3 di marzo, e questi meccanismi automatici taglierebbero spese dappertutto sul bilancio americano, creando dei problemi per la crescita economica. L'idea è che parta un negoziato e che ci si metta d'accordo specificatamente su un pacchetto di tagli alla spesa che possa evitare l'introduzione di questi tagli automatici. Ma non è così semplice. Perché? Perché i repubblicani hanno detto che vogliono usare la scadenza di fine febbraio del tetto sul debito come arma negoziale o come strumento negoziale per trovare un accordo sui tagli alla spesa, e hanno detto sostanzialmente che per ogni dollaro di aumento del debito americano, che dovrà essere approvato da loro, ci dovrà essere un taglio di un dollaro nelle spese. Sul piano, diciamo, del populismo potrebbe essere una mossa intelligente, se non che ieri Obama è intervenuto a gamba tesa su questa tematica e di fatto ha chiamato il bluff dei repubblicani. Il presidente è stato chiarissimo, ha detto: la responsabilità delle appropriazioni di spesa è esclusivamente del Congresso. Il Congresso delibera, decide, ci mandano le carte con le istruzioni di spesa, noi l'esecutivo procediamo e facciamo sì che queste spese avvengano. Obama dice: noi non potremmo spendere se non avessimo l'autorizzazione. Dunque, questo tetto sul debito è un tetto sul debito che riguarda spese già stanziate, già approvate, per le quali il Congresso ci ha detto di agire. È come andare a un ristorante, mangiare e andarsene senza pagare il conto, se non che il pranzo l'hai già consumato e dunque le spese sono già state fatte. E dunque, se a questo punto il Congresso non rinnova il tetto sul debito e non ci consente di andare avanti in quello che è il nostro dovere, la responsabilità è loro. We made a reasonable offer. It's now up to the White House to show us how they're going to cut spending and give us the balanced agreement that the president has talked about for weeks. Boehner, furibondo su questa posizione di Barack Obama, perché dice che il presidente non ha un mandato da parte degli elettori come ha detto di avere nel corso della sua conferenza stampa. Anzi, dice Boehner, gli americani vogliono che il debito sia ridotto, vogliono che le spese siano ridotte, e dunque le due cose debbono essere legate. Insomma, siamo tornati al muro contro muro. Il problema è serio, perché se si arriva alla fine di febbraio e questo problema non è risolto, bisogna vedere di nuovo chi fa il primo passo. Barack Obama mi sembra molto deciso. E i repubblicani a questo punto si trovano con il cerino in mano, perché dopo questo quadro d'insieme che ha dato il presidente americano, dopo il discorso che farà, non dimentichiamolo, lunedì prossimo, durante l'inaugurazione per il suo secondo mandato, beh, l'opinione pubblica avrà un quadro molto chiaro. E se i repubblicani davvero vorranno strumentalizzare il rinnovo del tetto sul debito, che dovrebbe essere un rinnovo semplicemente amministrativo, per questioni politiche, beh, rischieranno davvero di trovarsi loro con il cerino in mano. Even risk worse if we were to lose the confidence of foreign creditors and to have a threat to our fiscal and financial stability. Infine Ben Bernanke, anche il governatore della Federal Reserve, è intervenuto e ha dato ragione a Barack Obama. Bisogna aumentare il tetto sul debito, guai a dare soltanto l'idea che gli Stati Uniti possano entrare in bancarotta, perché per una semplice questione amministrativa non possono essere autorizzati dal loro congresso a andare a indebitarsi su un mercato che è pronto a dare comunque quattrini a questo paese. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. Golden Globe, vi ho detto che ne avremmo parlato. Beh, siamo giunti alla 70ª edizione di questi premi organizzati dai giornalisti, dai corrispondenti stranieri a Los Angeles. In genere dovrebbero essere un'anteprima degli Oscar. Bene, in questo caso non credo che lo saranno. Pensate che Argo, per esempio, scelto come miglior film, la storia della liberazione di questi ostaggi, una storia rocambolesca della liberazione degli ostaggi a Teheran negli anni 80, di cui vi ho parlato ampiamente in altre puntate, qui ha vinto come miglior film. Nel caso degli Oscar non è neanche preso in considerazione come miglior film, film tra l'altro diretto da Ben Affleck. On my own, pretending he's beside me. Grande serata per Les Misérables, che nella categoria comedy musical è stato giudicato miglior film, e Hugh Jackman è stato il miglior attore, e Anne Hathaway ha vinto il Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Mom, I know you're inside those blue eyes somewhere. And that there are so many things that you won't understand tonight, but this is the only important one to take in. I love you, I love you, I love you. And I hope that if I say this three times, it will magically and perfectly enter into your soul, fill you with grace and the joy of knowing that you did good in this life. You're a great mom. Please take that with you when you're finally okay to go. Infine un momento toccante, Jodie Foster, premio alla carriera, e devo dire a 50 anni ha detto sono una cinquantenne, l'attrice è stata straordinaria, intanto bellissima, ha anche confermato di essere lesbica, ha dichiarato di volersi prendere una pausa. In uno dei momenti più commoventi Jodie Foster ha parlato della madre, I love you, I love you, I love you, dice se lo ripeto tre volte forse mi ascolterai. La madre di Jodie Foster è purtroppo malata di una forma avanzata di Alzheimer. E comunque appuntamento agli Oscar, ne parleremo con alcuni colleghi, torneremo sul rapporto fra Golden Globe ed Oscar molto presto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter @MarioPlatero e su Facebook. Goodbye and get going!